Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Certificare la gestione corretta di una foresta è un tema che abbiamo affrontato già in questa trasmissione, mi pare più di un anno fa, però è particolarmente interessante e ci vorremmo tornare. Ci torniamo anche perché abbiamo scoperto che a Padova esiste la sede italiana di FSC, FSC Italia, un ente che ha appunto il compito di occuparsi della gestione, di certificare la gestione corretta delle foreste. Abbiamo oggi con noi il direttore della sede italiana, Diego Florian, che salutiamo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Benvenuto, grazie. E la prima domanda è: che cosa vuol dire FSC e che cosa vuol dire certificare la gestione di una foresta? FSC è l'acronimo, la sigla che identifica il Forest Stewardship Council, che è un'organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro, nata 20 anni fa su iniziativa di diverse realtà interessate alla corretta gestione delle foreste. Per diverse realtà intendo gruppi ambientalisti come Greenpeace e WWF, grandi aziende, industrie del legno e della carta e gruppi con interesse per la difesa dei diritti civili dei lavoratori e delle comunità indigene. Tutte queste realtà apparentemente disconnesse fra loro si sono riunite per accordarsi nello stilare una serie di regole di buona gestione delle foreste che appunto salvaguardassero i diversi interessi, quello di protezione dell'ambiente, quello della salvaguardia dei diritti sociali e quello della garanzia evidentemente di una produzione anche economicamente sostenibile nel tempo di prodotti in legno e carta. FSC ha creato come conseguenza di questa riunione, di questo connubio di intenti, ha creato un sistema di verifica della buona gestione forestale basato su principi e criteri condivisi a livello internazionale e un sistema di certificazione e di tracciabilità dei prodotti derivanti da queste foreste, per garantire al consumatore finale che lì dove sia presente un marchio su un prodotto finito, per marchio intendo l'etichetta con l'alberello e la scritta FSC che ormai credo tutti conosciamo, vi sia garanzia che a monte c'è un sistema di gestione forestale appunto che rispetta i principi e le regole dettate da FSC. Ecco, un esempio di qualcuno di questi principi, cosa potrebbe essere un buon principio di una corretta gestione? Un principio di corretta gestione può per esempio riguardare innanzitutto evidentemente il rispetto della legge in vigore nel paese di produzione e in generale a livello internazionale per i contesti forestali, ma andando un po' più nel dettaglio è prevista per esempio la giusta compensazione delle comunità che dipendono dalla foresta lì dove siano presenti, oppure vi è l'obbligo di coinvolgere i dipendenti nei processi decisionali, vi è obbligo di mantenere una costante formazione degli operatori in foresta in merito alle norme di salute e sicurezza, di protezione del luogo di lavoro. Andando negli aspetti ambientali, vi è obbligo di monitoraggio della flora e della fauna presenti all'interno di un'area a gestione forestale, vi è obbligo di salvaguardia di particolari tipologie di paesaggio presenti all'interno di una compresa forestale, oppure di avere un piano di gestione valido che garantisca appunto un prelievo legnoso nel corso di 5-10 anni, che appunto è normalmente la durata poi sia del piano che della certificazione. Quindi si può un po' riassumere rispetto della legalità, rispetto... Diciamo che il rispetto della legalità è il prerequisito, il punto di partenza, al quale si aggiungono appunto delle attenzioni di tipo ambientale. E anche ai lavoratori e alle popolazioni che vivono nei luoghi dove ci sono queste foreste. Esattamente, o che sono connesse in qualche maniera alle foreste, quindi che ne traggono per esempio il sostentamento, la fonte di vita o di economia. Benissimo. Sia in contesti diciamo più a rischio come quelli tropicali, ma anche nei contesti più salvaguardati come quelli europei. Bene, ne parliamo nella seconda parte di questa trasmissione, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di certificazione della corretta gestione di una foresta e lo stiamo facendo con Diego Florianne, direttore della sede italiana di FSC Italia, appunto. Stavamo parlando di cos'è la corretta gestione di una foresta. A noi vengono in mente vari tipi di foreste, per esempio abbiamo le foreste, non so, pensiamo in Trentino per rimanere in Italia, quelle grandi foreste dove si va a funghi, oppure dove si fanno le passeggiate per andare in montagna, oppure magari delle foreste o dei boschi che sono pensati per ricavarne del legno. Che differenza c'è tra questo tipo di foreste e anche per una gestione? Immagino che ci siano dei principi forse diversi. Certo. Diciamo l'immaginario collettivo della parola foresta è molto vario, ognuno di noi attribuisce immagini diverse in base all'esperienza che ne fa. Per rimanere al contesto strettamente italiano, c'è da sapere che la maggior parte delle foreste che possiamo raggiungere, comunemente più facilmente chiamati boschi, sono quasi tutte antropizzate, nel senso che portano i segni dell'interazione uomo-ambiente avvenuta nel corso dei secoli. Quando ci spingiamo nel vicino Trentino possiamo trovare quasi tutte i boschi che incontriamo sono boschi organizzati per la produzione del legname, e dei quali però si può ricavare in perfetto equilibrio e armonia anche un'attività turistico-ricreativa o attività di raccolta di frutti o funghi come, come sappiamo. In realtà non ci sono delle vere e proprie differenze dal punto di vista gestionale. La stesso bosco può offrire il medesimo servizio, tanto è vero che magari molti non sanno che quando in luglio e agosto andiamo a visitare il Pane Veggio o la magnifica comunità di Fiemme, non vediamo alcun boscaiolo tagliare un albero semplicemente perché vi è una convenzione nel non realizzare attività in bosco in questi due mesi, sia perché la qualità del legname che se ne ritrae è leggermente più scadente, sia perché si vuole lasciare massima fruibilità appunto ai turisti di poter godere di questo patrimonio. Nel corso dell'anno diventa una foresta orientata alla produzione del legname, così come è sempre stato. Questo tipo di gestione molto spesso, e nel caso specifico nella magnifica comunità di Fiemme, è anche certificata FSC, cioè è stato verificato che il gestore forestale, in questo caso il gruppo di lavoro che gestisce il patrimonio della magnifica comunità, si è impegnato ad assumere delle attenzioni in merito all'ambiente, in merito ai diritti dei comuni della valle e in merito all'industria del legno, che vanno oltre il semplice rispetto della legge e delle direttive previste dall'ordinamento. Esistono altre foreste in cui invece l'attività di estrazione del legno non viene proprio considerata, le cosiddette foreste di protezione, o perché ubicate in luoghi molto scoscesi, o perché portano al loro interno delle specie molto rare, molto caratteristiche, che vengono mantenute solo per o il patrimonio di biodiversità o la fruizione turistica. Certo, ecco, parlavamo prima del marchio, adesso troppo velocemente perché siamo in chiusura di trasmissione. Certo, questo classico marchio con l'alberello, dove lo possiamo trovare? Parlavamo forse sulla carta, quindi alcuni libri oppure con i mobili. Il marchio per fortuna si sta diffondendo sempre più, è molto comune nei libri di diverse case editrici, dalle più conosciute come Mondadori, Feltrinelli, Giunti e quant'altro. Lo troviamo in diversi prodotti ad uso domestico, carta, tissue, fazzoletti, salviette e quant'altro, e più frequentemente sta iniziando a comparire su prodotti d'arredamento offerti sia dalle grandi catene della grande distribuzione organizzata, quindi classici Leroy Merlin e così via, oppure a richiesta può essere non tanto riportato sul prodotto quanto sui documenti di vendita di alcuni elementi di arredo più grandi, cucine, pavimenti, serramenti e quant'altro. Siamo in un paese fortunato perché ci sono 1920 aziende nel nostro paese che sono in grado di offrire prodotti certificati FSC, prodotti finiti o prodotti semilavorati. Ecco, in chiusura diamo un indirizzo dove poter trovare informazioni? Sì, allora il nostro fonte principale è il sito internet www.fsc-italia.it, oppure potete contattarci nel nostro ufficio nazionale, che appunto, come stevi, è presente a Padova in via Foscolo 12. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Diego Florian per questa telefonata, perché questo collegamento telefonico, avete sentito qualche rumore di fondo dovuto al fatto che Florian era in treno. Non abbiamo fatto a tempo a dire, ma lo dico io adesso, che il 29 di maggio all'interno della Expo milanese ci sarà anche la premiazione all'interno dell'Assemblea Nazionale dei FSC Italia di un particolare premio che premia il design di prodotti realizzati con appunto legno certificato o prodotti a base di legno certificato. Il concorso La Foresta in una Stanza, il 29 di maggio all'interno di Expo. Passiamo adesso a chiudere della trasmissione con alcune brevissime notizie. E rimaniamo in tema di Expo, perché ha preso operativamente il via all'interno di Expo 2015 il nuovo accordo che unisce i consorzi di tutela del Vicentino in un percorso comune di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Stiamo parlando dei consorzi di tutela del formaggio Asiago DOP, dell'asparago bianco di Bassano DOP, dei vini di Breganze DOC, la ciliegia di Marostica IGP, i vini dei Colli Iberici Vicenza DOC e Gambellara DOC e la soppressa vicentina di OP. Il primo appuntamento del nuovo sodalizio è fissato per il prossimo sabato 16 maggio nell'area Coldiretti di Expo, dove i consorzi introdotti dal documentario Capindo la Late, dedicato all'altopiano dei Sette Comuni e al suo patrimonio di biodiversità, proporranno una serie di percorsi tematici e di approfondimenti sul tema di alimentazione ed eccellenze del territorio. Questo sodalizio tra consorzi riguarda circa 9.500 addetti nella filiera, produttiva, 510 aziende trasformatrici associate, più di 130 milioni di fatturato. Passiamo all'Europa. Il Parlamento europeo ha votato il testo sulla quantità di biocarburanti derivati da colture agricole da utilizzare nei trasporti. È prevista una quantità massima del 7%, la Commissione europea aveva proposto addirittura il 5%, e sono stati stabiliti obiettivi dello 0,5% per i biocarburanti avanzati a livello europeo e nazionale, che però non sono obbligatori, e questo è un punto che rappresenta appunto un punto debole nella creazione di un quadro stabile che permette investimenti e incoraggi lo sviluppo commerciale del settore. Infine, l'Associazione Nazionale Consorzi per la Tutela e la Gestione del Territorio e delle Acque Irrigue, noti anche come Consorzi di Bonifica, ha annunciato la Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione 2015, che si terrà in tutta Italia a partire dal prossimo sabato 16 fino al 24 maggio, con lo slogan «La terra nutre, l'uomo la divora». Saranno centinaia di eventi, incontri, convegni, ma anche possibilità di visitare dei siti. Per avere informazioni su cosa si potrà fare nel Veneto, è necessario andare a visitare il sito dell'Unione Veneto Bonifiche, www.bonifica-uvb.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento al quadrifoglio con la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.